Italia in controluce. Buongiorno a tutti, oggi è il 24 di giugno, in studio vi parla, come spesso accade ormai da diversi anni, Daniele Biacchessi. Oggi parliamo della sentenza del processo Ruby, che non è ancora arrivata, ma oggi è il giorno, diciamo, di Silvio Berlusconi. E vi ricordo subito i vostri sms al 349-238-6666. Vi chiediamo che cosa vi aspettate da questa sentenza, visto che arriverà nel pomeriggio, dopo 26 mesi, poco più di 50 udienze. Ricordo che Berlusconi è accusato in questo processo di concussione, prostituzione minorile nel processo Ruby. 6 anni è stata la pena chiesta dai pubblici ministeri. In aula a Milano era presente il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati, assente invece Ilda Boccassini. Per parlare del processo Ruby, chi meglio di Raffaella Calanda, che l'ha seguito fin dall'inizio. Allora, anticipazioni sull'orario non ce ne sono, naturalmente. Al momento non ci sono ancora, non c'è ancora nessuna indicazione. Quando alle 10:50 più o meno il presidente della Corte Giulia Turri ha dichiarato chiuso il dibattimento, non ha dato un'indicazione di orario, ma si sono fatti dare, diciamo, dei riferimenti telefonici di tutte le varie parti per poterle avvisare nel momento in cui saranno per uscire dalla Camera di Consiglio, e a quel punto, quando avremo chiaramente indicazioni in questo senso, vi aggiorneremo nei giornali radio. Ma che processo è stato, tu che l'hai seguito, diciamo, fin dall'inizio? Qui stiamo parlando di un processo molto particolare che riguarda una storia altrettanto particolare, cioè questa di Ruby e dei rapporti con il presunti o veri con il Cavaliere. Ci sono stati dei momenti anche abbastanza forti, momenti di grande pathos e soprattutto di grande polemica nella diatriba tra parti come appunto la Boccassini, pubblico ministero, quindi la procura della Repubblica di Milano, e gli avvocati di Berlusconi. E tutto questo si intreccia anche, e lo ricordo ai nostri ascoltatori, al 349-238-6666, anche con la tenuta del governo, anche se Berlusconi da diverse settimane continua a negarlo, ma è indubbio che questa sentenza potrebbe ricadere anche sulla tenuta del governo a guida di Enrico Letta. Allora Daniele, vari punti hai messo in evidenza. Innanzitutto, questo è stato un processo, il processo più seguito a livello internazionale dei processi a Silvio Berlusconi, ed infatti, come già nella prima udienza ormai nell'aprile di 2 anni fa, così oggi sono decine le testate di tutto il mondo che sono arrivate al Palazzo di Giustizia di Milano, quindi c'è una ribalta internazionale fortissima. Quanto alle polemiche, è stato un processo di un crescendo di tensione tra le parti, tra richieste di legittimo impedimento, ricorderanno i nostri ascoltatori, da parte dell'ex premier, in una battaglia legale tra visite fiscali per, lo ricorderete, l'uveite appunto del Cavaliere, fino ad arrivare alla richiesta di trasferimento del processo a Brescia, negata dalla Cassazione da parte degli avvocati di Berlusconi per rimessione dei giudici. E poi ancora, e anche quello, anche se fuori dal processo, ha sancito un elemento molto forte di tensione, la marcia dei deputati del PDL sul Tribunale di Milano, quindi un clima di grandissima tensione. Mentre per quanto riguarda possibili temute, le paventate ricadute da un punto di vista politico, questa sentenza non ne ha in immediate, ma ne ha soprattutto collegate agli altri processi di Silvio Berlusconi, perché entro l'anno arriverà il verdetto definitivo, quindi della Cassazione, per il processo Mediaset sui diritti TV, dove Berlusconi è stato già condannato in primo e secondo grado a 4 anni, compresa l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Ed è quello, diciamo, lo scenario che più preoccupa la politica, considerando che anche nel processo Ruby, oltre alla richiesta di 6 anni per induzione indebita e per prostituzione minorile, la procura ha chiesto la interdizione perpetua dai pubblici uffici. Va ricordato però che comunque, anche se nel caso in cui ci fosse una conferma definitiva in Cassazione, la decadenza competenza dai pubblici uffici, quindi dal suo incarico da senatore, deve passare attraverso la giunta di Palazzo Madama in questo caso, quindi ci deve essere un passaggio, una ratifica di tipo ratifica o meno di tipo politico. Va anche detto che questa sentenza Ruby arriva in un momento, per una serie di incastri complicati, davvero in una coincidenza particolare di vicende giudiziarie per l'ex premier, perché la settimana scorsa c'è stata il verdetto della consulta su un legittimo impedimento negato, mentre tra tre giorni ci sarà la parola fine forse della Cassazione civile sul lodo Mondadori, ossia il fatto che la Fininvest è stata condannata a pagare 540 milioni alla CIR di Carlo De Benedetti per la cosiddetta guerra di Segrate. Quindi questa successione di vicende giudiziarie inevitabilmente quantomeno provocherà degli scossoni sul mondo politico. Vediamo i primi sms, che sono in realtà decine, che sono arrivate a 349-238-6666, tutte le volte lo abbiamo fatto in questi anni, parliamo delle vicende giudiziarie, soprattutto di Silvio Berlusconi. L'Italia resta divisa e diciamo che sulla bacheca dei nostri sms dimostra anche qui la stessa cosa, da chi dice che la legge deve essere rispettata da tutti e da chi invece è sicuro che sarà condannato perché i giudici e i magistrati sono decisamente faziosi. Poi c'è Patrizio da Pistoia che dice: sentenza di primo grado con la giustizia che c'è in Italia in appello, poi verrà assolto e poi Silvia metterà mano alla giustizia. Io non mi aspetto proprio nulla, dice Michelangelo da Bari, tanto o vince o perde, lui sta sempre lì, nello stesso luogo. Verrà giustamente punito, dice Angelo, farà saltare tutto e alla fine il popolo italiano darà la colpa ai giudici. Un altro ascoltatore, Andrea da Bologna, si augura che ci sia una condanna per concussione e per falso. C'è chi parla di Berlusconi come il vero ostacolo allo sviluppo italiano e chi lo osanna come il salvatore. Questo è il quadro da quello che vedo al momento al 349-238-6666. Perché Raffaella Calandra è così importante il processo Ruby? Quali implicazioni ha portato in questi anni di discussione sulle vicende giudiziarie dell'ex Presidente del Consiglio? Beh, innanzitutto perché, come ricordavo, è stato in assoluto il processo più mediatico, il processo su cui c'è stata una più forte attenzione di tutti i media a livello internazionale, per le caratteristiche stesse del processo. Cioè, da una parte, secondo la procura, nelle feste di Arcore si consumava un sistema prostitutivo, ha detto il PM Ilda Boccassini, per i favori sessuali dell'ex premier, in cui fu inserito, secondo la procura, anche una minorenne, l'allora minorenne Karima El Marug, ossia Ruby. Dall'altra parte, per la difesa, quelle erano soltanto delle cene eleganti con dei momenti di burlesca, e poi questo processo ha aperto anche tutto il capitolo di una sfera, quella privata, quella riguardante anche le attitudini sessuali, che è stata oggetto di forti polemiche politiche, anche se qui va ricordato la questione è un eventuale o meno rapporto sessuale con una minorenne, e quindi uno dei nodi centrali della sentenza che i giudici andranno ad emettere è la consapevolezza o meno di Silvio Berlusconi che Ruby in quel momento fosse effettivamente minorenne e non che avesse 24 anni come diceva. Altro elemento molto importante, anzi forse ancora più importante, è come i giudici andranno a giudicare quella telefonata che nella notte del 27 maggio 2010 Berlusconi fece da Parigi in questura a Milano quando Ruby fu fermata per furto. Questo è importante perché innanzitutto il reato è quello più forte, cioè è quello per i quali la procura ha chiesto 5 anni per Berlusconi, ma perché nel frattempo l'ex reato di concussione è cambiato con il DDL Severino e ora si parla di induzione indebita. Questo è importante ancora perché secondo la difesa di Berlusconi non esisterebbe più quel reato, quindi bisognerà capire se invece i giudici riterranno come pressioni quella telefonata del Premier. Ultimo elemento, non ci sono parti civili in questo processo, cioè né Ruby, ossia la, in teoria la presunta vittima di quella violenza, di quella, diciamo, di quegli atti sessuali, si è costituita parte civili perché ha sempre negato di aver avuto rapporti a pagamento con Berlusconi, né si sono costituiti parte civile i funzionari della questura che ricevettero quelle telefonate. Ma per la procura Ruby, ad esempio, non era attendibile, e loro si poggiano soprattutto su delle intercettazioni, non l'hanno considerata, diciamo, un test attendibile, per cui secondo loro ci sono i fatti come le intercettazioni e ci sono i soldi che Ruby, come altre ragazze che frequentavano, le olgettine che frequentavano Arcore, prendevano, e sarebbero secondo la procura una delle prove di quel sistema prostitutivo messo in atto da Fede, Mora e Minetti, che però vengono giudicati in un altro processo. Grazie a Raffaella Calanda, staremo a vedere la sentenza dunque prevista del pomeriggio. Naturalmente Radio 24 seguirà con servizi, approfondimenti, con breaking news. Devo anche dire, perché lo vedo sui tanti sms che sono arrivati a 349-238-6666, che c'è anche molta stanchezza da parte dei nostri ascoltatori, credo degli italiani, di queste vicende di cui parliamo, tant'è che molti ci chiedono anche per favore parlate di altro. Altro, no? Anche se poi noi siamo per forza di cose soggiogati dalla cronaca, e questa è la cronaca, e oggi la notizia più importante dovrebbe arrivare proprio nel pomeriggio con la sentenza del processo Ruby, che però al di là della stessa sentenza avrà e probabilmente ha già in queste ore un rilievo politico molto forte sulla tenuta del governo guidato da Enrico Letta. È tutto, domani ci risentiamo, vi ricordo che voi avete la possibilità di comunicare con noi a controluce@radio24.it e poi avete le pagine Facebook, Twitter e anche il gruppo di Facebook di Italia Controluce, dove potete lasciare tranquillamente i vostri post. Grazie a tutti.